Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, 7:35 minuti, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, iniziamo tra poco con i giornali, una rassegna stampa veloce che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8, quindi possiamo cominciare. Vi ricordo che se volete commentare tutto quello che sentite c'è il 349-238-6666 anche su WhatsApp, poi Si può fare Radio 24 su Facebook, chiocciola Si può fare 24 su Twitter. Vai, cominciamo subito. Allora, G7 da tutte le parti, ritorna la questione dei voucher, gli esteri ancora con il terribile attacco ad un autobus di cristiani copti in Egitto, le dimissioni del direttore generale della RAI Campodall'Orto. Questi sono i temi principali che campeggiano sui giornali di oggi. Compresi sulla questione del G7, un G7 che qualcuno scrive non è un fallimento, altri a bassa voce dicono magro risultato. Non solo per l'Italia che lo ha organizzato, ma in generale, perché non c'è un accordo sul clima, non c'è un accordo sui migranti, c'è ancora la giornata di oggi, però le montagne da scalare sono alte, c'è una dichiarazione sul terrorismo. All'indomani di un attentato come quello di Manchester era difficile che non ci fosse una dichiarazione congiunta sul terrorismo, era praticamente impossibile. Quindi per ora stringi, c'è soltanto la sfuriata di Trump nei confronti della Germania sul protezionismo alla vigilia del vertice G7. Come sapete, Trump avrebbe detto, parlando con Juncker a Bruxelles, i tedeschi sono cattivi perché esportano troppe automobili in giro per il mondo, in particolare ovviamente quello che interessa a lui in America. E poi c'è stata una specie di smentita, Juncker ha detto è un problema di traduzione, Trump non ha detto cattivi, ha detto che c'è un problema con i tedeschi. Insomma, il problema con i tedeschi c'è. La Merkel, per la prima volta da quando partecipa ai G7, ne ha fatti tanti, perché è la veterana sicuramente tra i leader che erano ieri a Taormina, ieri e oggi. Per la prima volta non partecipa alla conferenza stampa finale, cioè non tiene una conferenza stampa personale, finale. E quindi questo è un segnale. Vediamo come la mettono giù i giornali sui giornali di oggi, intanto con i titoli, poi vedremo anche qualche articolo. Accordi a rischio, G7 in salita, scrive il Corriere della Sera. Trump attacca i tedeschi, Merkel risentita, gli Stati Uniti frenano sul piano migranti. Per Repubblica, clima e migranti, niente intese. Trump e Merkel litigano al G7, quindi diciamo titoli fotocopia. Migranti, al G7 passa la linea Trump, scrive la stampa. Riconosciuto il diritto degli Stati Uniti a tutelare i confini, sul tema commercio prevalgono le divisioni. Sulla stampa, l'attacco del pezzo dell'inviato, uno degli inviati, Mastrolilli, è una sintesi che fotografa i temi principali sui quali, sì, certo, Trump ha posto delle questioni e si è posto, molti giornali usano la parola ostile, in modo ostile rispetto agli altri leader. Bisogna però dire che, per esempio, su un tema a caso, quello dei migranti, non è che fino ad oggi, per esempio, l'Europa avesse trovato un'intesa. Dice, arriviamo al vertice G7 con l'Europa che ha una posizione unita e Trump ci blocca. Non è così. Una posizione di solidarietà nella gestione della questione dei migranti non esiste da nessuna parte, Trump o non Trump. Comunque, scrive la stampa, il premier italiano Gentiloni ha ragione a sostenere che le migrazioni sono un'emergenza globale, ma la sicurezza dei confini viene prima e si scordi nuove risorse americane per aiutare i rifugiati. rifugiati, primo punto. Poi la Germania, dicevamo, è molto cattiva per come spinge le sue esportazioni, ma Washington è pronta a ripagarla con la moneta della reciprocità. L'ambiente è assai importante, ma se le misure adottate a Parigi per contenere il riscaldamento globale frenano l'economia americana, siamo sempre lì, e compromettono la creazione del lavoro, i firmatari dell'accordo dovranno rassegnarsi ad applicarlo senza gli Stati Uniti. Sono alcuni, scrive appunto Mastrolilli sulla Stampa, esempi di come il ciclone Trump ha sconvolto l'agenda del G7, ma non solo nel colore. L'aspetto di colore è uno degli aspetti di colore, oltre ai fiori, diciamo, il vestito che secondo qualcuno costa 55.000 euro di Melania Trump, che è apparsa fiorita, 55.000 euro per il vestito, così ho sentito da qualche parte, ma al di là di questo aspetto non è questo il colore è quello di Trump che nella passeggiata nel centro di Taormina, mentre gli altri G6, questo è un G6 più uno, erano diciamo uno a fianco all'altro, un'immagine ovviamente ad uso e consumo dei fotografi e della simbologia, però insomma questi vertici si basano anche su questo tipo di elementi, lui era in macchina dietro, nell'auto elettrica che si faceva i cavoli suoi, e questo è l'elemento diciamo più colorito di tutto il G7 da questo punto di vista. Ancora però leggiamo qualche altro titolo sulla migranti e clima, gli scogli del G7, scrive il Messaggero, il vortice per il manifesto è con la foto dei leader Theresa May, Trump, Macron, il ciclone Trump, quindi è qui il vortice, trasforma il vertice di Taormina in un vortice di passi indietro, impegno generico contro il terrorismo, nulla di fatto sul clima, linea dura sui migranti, un G7 dominato da Stati Uniti e Gran Bretagna, protetto da 4 unità navali, 10.000 uomini. Oggi il corteo di protesta. Già oggi a Taormina è atteso anche la manifestazione di protesta, credo dei centri sociali o qualcosa del genere. Taormina vagante, anche il giorno questa mattina si lancia in un titolo con un gioco di parole, mina evidenziato, scritto in rosso, mina vagante, quindi la mina vagante chi è? Lui naturalmente, la solita foto di gruppo con Trump che guarda da un'altra parte, Trump e gli altri leader divisi quasi su tutto, niente accordo per i migranti, fumata nera su clima e commercio, litigio con la Merkel, unità solo nella lotta all'ISIS. Il giornale Libero scelgono di titolare principalmente sulla notizia dell'Egitto, Islam macella 35 cristiani, siamo al titolo, al solito titolo nel quale è l'Islam che macella 35 cristiani, non diciamo chi ha compiuto quell'attentato, che erano sicuramente dei terroristi di matrice islamica, ma vabbè, insomma, Libero ormai cioè, abituato a questo tipo di titoli, anche di imbarbarimento mi verrebbe da dire, ma insomma ognuno la vede come gli pare, e i lettori di Libero sono, scelgono evidentemente liberamente di dedicarsi a questo tipo di approssimazioni. C'è chi dice non è una guerra di religione, ma gli assassini assaltano in Egitto un pullman di pellegrini carico anche di bambini, firmano l'eccidio, i capi musulmani si dicono scandalizzati, ma il 99% dei fedeli di Allah tifa ISIS. Ecco, questo è il sondaggio, no? Scientifico. Il 99% dei fedeli di Allah tifa ISIS. Questo si scrive Libero nel suo sottotitolo. Un sondaggio scientifico, naturalmente, è ovvio, no? È chiaro che sia così. No, è chiaro che non è così, quindi frasi buttate lì. Il 99% dei fedeli di Allah tifa ISIS. Non riesco a staccare gli occhi da questo titolo perché non ci credo, ma è così, c'è scritto così. Il giornale, massacro in Egitto, strage di bimbi cristiani, assalto degli uomini dell'ISIS a un autobus di fedeli copti, 35 vittime, e il G7 scarica l'emergenza migranti sull'Italia. Questo mi sembra un titolo più che fotografa più da vicino la situazione. Sulla vicenda dell'Egitto può essere interessante leggere il titolo di Avvenire, i pellegrini martiri, attacco ad un autobus di famiglia, le vittime sono 35, feriti 25, i sospetti ricadono su gruppi jihadisti, i vertici islamici condannano l'attacco, già perché si dice spesso che i vertici o comunque le autorità, o comunque le autorità religiose islamiche, gli imam, insomma, o chi per loro, non prendono le distanze dagli attentati nei confronti, cioè perpetrati dal terrorismo di matrice islamica. Ieri il grande imam della moschea di Al-Azhar del Cairo, che è la massima autorità sunnita, ha subito detto un attacco inaccettabile. Vabbè, ma insomma, meno male, perché cos'altro si può dire su questo genere di atrocità commesse? Direi che possiamo andare sul traffico, torniamo tra pochissimo, leggiamo qualche dettaglio sui nodi su cui si sta inceppando forse, o magari poi saremmo sorpresi sul finale, il vertice G7, e poi anche le altre notizie, come detto Rai, voucher, tornano i voucher, ma il governo è diviso, e poi la svolta sulla riforma elettorale, svolta, l'ennesima, la 4742esima svolta sul sistema elettorale. Però oggi e domani il Movimento 5 Stelle vota sul sistema tedesco, che quindi potrebbe non essere più una prerogativa solo dell'intesa tra il PD di Renzi e il centrodestra berlusconiano. Traffico, torniamo tra un attimo. Allora, eccoci qua. Quindi possiamo dare un'occhiata anche ad alcuni, nei resoconti dei giornali, alcuni dei nodi che devono essere sciolti al vertice di Taormina, al G7. Allora, difficile, perché sono tante materie: clima, terrorismo, migranti. Scrive il Corriere: Gentiloni non ha risparmiato sforzi per portare in primo piano le convergenze sulle crisi regionali, Siria, Libia, Ucraina, Corea del Nord, soprattutto per quanto riguarda la forte condanna al terrorismo, e questo è l'unico punto fermo che abbiamo al momento. La più forte azione possibile per trovare, eliminare e punire i terroristi e quanti li appoggiano, ma anche l'impegno al contrasto finanziario, la condivisione dell'intelligence. E questa è la bozza, diciamo, la dichiarazione per quanto riguarda il terrorismo. Ma quello che dicevamo prima: sintetizzare in una sola immagine il resto del summit siciliano e la distanza fisica di Donald Trump dagli altri leader nella passeggiata inaugurale di ieri sul corso di Taormina, con l'americano che seguiva a buona distanza da solo in auto elettrica. E in effetti dalle immagini si vedevano tutti, Macron, Gentiloni, la Merkel, Trudeau, eccetera, eccetera, la May, e cercavamo con lo sguardo Trump, dov'è Trump? Era in macchina dietro, appunto, e questo è quello che è successo ieri, probabilmente per questioni di sicurezza, ma anche per dare una distanza, per segnare una distanza che lui ci tiene a far capire che è contro l'establishment. Nel merito, la delegazione americana ha preteso il ridimensionamento dell'ambizioso testo sui migranti che era stato proposto dalla presidenza italiana. Era il nodo italiano questo qua. Così non ci sarà dichiarazione separata sul tema migranti, solo due paragrafi troveranno spazio nel comunicato del G7, con una formula blanda sulla necessità di aggredire le cause della migrazione aiutando lo sviluppo nei paesi d'origine, ma una dichiarazione di principio quasi del tutto inutile sul piano operativo. Ma direi che possiamo chiuderla qua per quanto riguarda il tema del G7, perché non è che ci sarebbe da dire molto, ma abbiamo già detto abbastanza. E allora, invece, sulle altre questioni, per esempio, c'è una notizia intanto che non c'è su alcuni giornali, ma il futuro dell'Ilva con la Mittal, intesa in Marcegaglia, scrive il Corriere in prima pagina, anche il Sole 24 Ore, secondo titolo principale. È una grande azienda italiana, i commissari ieri hanno aperto le buste e hanno la cordata Arcelor Marcegaglia in testa. Quindi a giorni, scrive il Sole, l'aggiudicazione superata l'offerta di Acciaio Italia, c'era anche la Jindal indiana, Ilva verso Arcelor Marcegaglia. Velocemente a pagina 7, all'interno del Sole, un miliardo di investimenti ambientali per bonificare il territorio, ma soprattutto l'azienda, un miliardo di investimenti ambientali per recuperare l'Ilva, 9,5 milioni di produzione di tonnellate, l'obiettivo massimo da raggiungere. Sono queste alcune delle principali variabili dell'offerta che hanno fatto propendere appunto i commissari per questa soluzione. Poi abbiamo detto la questione, per esempio, dei voucher, che è il titolo principale, per esempio, per Repubblica, perché si torna a discutere di questo. Voucher bis, il governo non si ferma, la CGIL però dice peggio di prima, e contrari sono anche i fuoriusciti dal PD, Bersani e Speranza, ma anche una parte del Partito Democratico stesso. La Camusso dice è un pasticcio peggio del passato, addirittura, come sapete, i voucher che sono stati aboliti dal governo, addirittura in corsa verso il referendum che li avrebbe comunque abrogati in caso di vittoria del sì, e adesso una riproposizione di un testo che in qualche modo ricalca un po' la storia dei voucher, anche se con modalità leggermente diverse. Si passa, prima i voucher si potevano comprare in tabaccheria, adesso bisognerebbe accedere a una piattaforma online dell'INPS. Questo, secondo il governo, cambierebbe la natura anche giuridica, non più un voucher cartaceo usa e getta, ma un vero e proprio contratto di lavoro, come chiedono le opposizioni, soprattutto quelle di sinistra. Ma questo è uno dei cambiamenti. L'altro è l'identità. Da 7,5 euro netti si passa a 9, euro netti nella nuova formulazione. Sale anche i contributi per il datore di lavoro nei confronti del dipendente, 35% del compenso, quindi 3 euro sostanzialmente, per cui il lordo sale a 12 euro da 10 per ogni titolo. I voucher non potranno superare l'importo di 5.000 euro, prima l'importo massimo era 7.000 euro, insomma sembra un po' il gioco trova le differenze, no? Non è che il testo sia molto diverso da quello che era la modulazione dei voucher, quindi che dire, insomma, è un governo anche schizofrenico, che poteva riformarli anziché abolirli, li ha aboliti, adesso li ripropone in una formulazione diversa, ma che a chi li ha criticati suona molto simile. Quindi insomma, chi tocca i voucher muore, questo potrebbe essere. Nessuno vuole associare il proprio nome all'idea del lavoro precario. Il lavoro precario però esiste, e quindi far finta di nulla e normarlo vuol dire semplicemente poi favorire il lavoro nero, questo lo sappiamo tutti. Uber, abbiamo un minuto. C'è anche Uber, perché ieri il Tribunale di Roma, lo sapete, ha stabilito un'altra tappa di questa vicenda, iniziata nel 2015 quando il giudice di pace accolse a Genova il ricorso di un guidatore Uber che era stato sanzionato come tassista abusivo. Poi il Tribunale di Milano dispone il blocco in tutta Italia di Uber Pop, la app dove ognuno può mettersi al volante e fare il tassista. Resta Uber Black, bloccato il 7 aprile di quest'anno dal Tribunale di Roma, la app che consente a tassisti professionisti di essere convocati su ordinazione, ma c'era la questione del fatto che dovessero stazionare all'interno delle rimesse, come chiedevano i tassisti, e invece il Tribunale di Roma gli era stabilito che questa necessità non c'è, però invita a una riscrittura delle regole. Intanto, insomma, il servizio Uber, anche se i tassisti protestano, torna ad essere regolare, in attesa però della benedetta normativa nazionale, che non c'è ancora. Siamo in chiusura, solo il titolo di Gazzetta dello Sport, il giro all'ultimo respiro, Quintana, Dumoulin, Nibali, Pinot, tutti in 53 secondi, oggi un'altra tappa, il Monte Grappa, domani la Crono. GR, ci rivediamo, ci risentiamo dopo, come si può fare. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Voci dal giro. Fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo chilometro, fino alla fine, finché ce n'è. Giro bello e spettacolare, ma anche maledettamente equilibrato, incerto e a questo punto quasi indecifrabile, perché le forze in campo sono quelle che sono, molto livellate verso il basso. Si gioca chi ne ha di più tra quelli che ormai ne hanno di meno. Si gioca ancora oggi, prima del finale di domani, con la crono di 29 km da Monza a Milano. Quintana ieri a Piancavallo ha strappato la maglia rosa all'olandese Ton Dumoulin e adesso ha un vantaggio di 38 secondi sull'olandese, 43 su Vincenzo Nibali e 53 sul francese Thibaut Pinot. Oggi tappa numero 20, ultima occasione per far saltare il banco in una tappa però piuttosto particolare. 90 km pianeggianti, poi il Monte Grappa da Capua, salita che ha nella lunghezza quasi 30 km la sua maggiore difficoltà. La pendenza media non arriva al 6% dalla cima lunghissima discesa, dopo le quali si arriverà alla salita di Fonza, ultima del giro. 14 km al 6% costante. A ruota si starà bene, per fare la differenza servirà un'azione ben strutturata. In cima non ci sarà il traguardo, ma altri 15 km mossi che potrebbero ribaltare ancora una volta le sorti della Corsa Rosa. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pordenone. Voci dal Giro, in collaborazione con... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. So don't stop, stop. Under the lights when everything goes. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance. 8:21 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare con noi anche questo sabato mattina per raccontarci le vostre buone notizie di questa settimana. Carlo, Milano Monterosa? È bello, c'è il sole, c'è anche un po' di freschetto, ma è l'orario. Bellissima mattinata. È bello, su volge al bello su tutta Italia, su tutta Italia. Fa un caldo, allora. Anzi, ieri faceva un caldo che siamo come è sempre estate, direttamente passati. Sì, ma è estate nel senso che è il 12 d'agosto proprio. Sì. Stiamo per partire per le vacanze. No, magari. Cari ascoltatori, allora... per stare con noi, anche per giocare con noi, come sempre, si porta a casa un libro a tema sulla puntata di oggi. Insomma, noi questa settimana, siccome c'è un'epidemia di dichiarazioni d'amore pubbliche, di proposte di matrimonio via social, dopo Fedez, Ferragni, il cacciatore del Matera che ha interrotto la partita, ieri un parlamentare inglese in piena sessione parlamentare ha dichiarato alla moglie, alla futura moglie, che voleva sposarla. Allora noi vi chiediamo... Ha detto di sì? Questo non è dato saperlo. No, perché hai dato futura moglie, ho detto, forse lui è ancora lì che aspetta. Esatto, forse sì. Di spiegarci perché questa epidemia di amore via social... le vostre dichiarazioni, le vostre proposte di matrimonio, come le avete fatte, come le farete, noi siamo qua, 800 24 00 24, soprattutto se in qualche modo avete voluto coinvolgere anche amici, parenti, il pubblico delle situazioni nelle quali vi trovavate, perché a volte sono momenti anche molto intimi. Io per esempio l'ho fatto in un momento di massima intimità e non avrei potuto immaginare una cosa diversa da così, invece evidentemente sono io che sono antico, ma devi raccontarcela però adesso. Piano. Va bene. 800 24 00 24. Tra poco però parliamo di una questione vera, perché al G7 si parla di tutto tranne che delle questioni vere. I call center, la questione call center. Almaviva, i lavoratori hanno raggiunto un accordo con l'azienda. Sono salvi i posti di lavoro, siamo contenti, ma vogliamo vedere e capire che cosa, come è stato possibile questo accordo, perché ci sono dei sacrifici che questi lavoratori hanno accettato di fare, ma vedremo come e perché. Tra poco, 800 24 00 24. Vai. Baby, but here's my number. So call me maybe. Hey, I just met you. È con noi Giovanni Gorgone, portavoce dell'RSU Fistel CISL di Palermo e di Trapani, lavoratore della Alma Viva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, non sempre è questo lo spirito col quale riceviamo le vostre telefonate dai call center. Tutto questo entusiasmo, perché a volte i call center, possiamo dirlo, cioè ci chiamano... Non si capisce niente, ci chiamano nei momenti peggiori, ci propongono le cose più assurde. Però tante volte invece noi ne abbiamo bisogno di voi, ne abbiamo bisogno. Sì. Sempre, proprio, sono attaccato ai call center, quindi... Ci tengo che rimangano italiani anche semplicemente per una questione di comprensione, perché spesso si parlano con delle persone che proprio non si parla la stessa lingua, quindi diventa molto difficile. Una compagnia inseparabile. Allora, questa settimana la notizia è questa: voi lavoratori della Alma Viva avete votato un referendum che ha approvato l'accordo che è stato fatto dai sindacati con l'azienda, che prevede una serie di sacrifici anche da parte vostra, alcuni temporanei, sacrifici in termini di stipendio, di scatti di anzianità bloccati, adesso ce lo spiegherai meglio Giovanni, a fronte, si spera, voi sperate, di un miglioramento delle condizioni di lavoro dell'azienda. Sappiamo che a monte c'è la questione dei contratti di chi appalta questi servizi di call center a voi aziende di call center, e spesso e volentieri in concorrenza con aziende estere che costano, che stanno all'estero, costano meno, offrono un servizio forse diverso, ma insomma il governo sta studiando una norma per fare in modo che una parte di questi servizi rientrino in Italia. All'orizzonte tutto questo, però nel frattempo l'accordo all'Alma Viva è una buona notizia, Giovanni? Allora, certamente è una buona notizia nella misura in cui manteniamo il perimetro occupazionale. Non è un bell'accordo, ma è certamente il miglior accordo che in questo momento di crisi si potesse fare. Che tipo di sacrifici prevede questo accordo per voi? Tanto per... Allora, intanto voglio dire che i lavoratori di Palermo, del sito di Palermo, di Alma Viva, hanno dato ancora una volta dimostrazione di senso di appartenenza e di spirito di sacrificio. Palermo è un po' la capitale dei call center forse in Italia. Quanti lavoratori ci sono? Solo in Alma Viva 2850 circa. Ok. Per noi è diventato il lavoro della vita. Eravamo tutti giovani nel 2001 quando Alma Viva ha aperto i battenti a Palermo. E quindi è passata una vita nel frattempo. Pensavamo che fosse un lavoro di transito, sì. Dopo l'università, insomma, però poi tu hai iniziato, Giovanni, tu hai iniziato così, con questa idea. Sì, abbiamo iniziato un po' tutti con questa idea, però poi alla fine è diventato il lavoro della vita, e vi assicuro che è un lavoro importante ed impegnativo, perché tu facevi delle considerazioni, ricevete le chiamate, a volte è quasi un disturbo, ma io vorrei fare un distinguo: ci sono due tipologie di operatori, chi fa outbound, quindi chi chiama, certo, e chi fa inbound, che è colui il quale riceve le chiamate e risponde ai nostri quesiti. Bravo. Quindi non è un lavoro di poco conto, cioè bisogna essere celeri, capire quali sono le esigenze del cliente e cercare subito di trovare una soluzione ed accontentare appunto le richieste. No, ma noi non pensiamo minimamente che sia di poco conto, anzi penso che ultimamente, soprattutto da quando c'è internet e molte cose uno compra online, non ha la possibilità di avere un'interfaccia umano, in realtà l'interfaccia umano siete voi. Resta la telefonata, quindi è sempre più importante. Infatti è incredibile pensare che un servizio che è sempre più importante, man mano che cresce, come diceva Carlo, l'utilizzo web dei servizi, a mano che cresce di importanza il call center, però scopriamo che in Italia crescono anche i problemi attorno alle aziende di call center. Tu e ci... si vuole sempre pagarli meno, perché poi capiamo quali sono le cose a cui avete rinunciato e in cambio di che cosa, cioè oltre al posto di lavoro. Allora, considerate che io parlo del sito di Palermo, noi siamo in ammortizzatore sociale già da quasi 5 anni. Cassa integrazione? Abbiamo fatto contratti di solidarietà, FIS, fondo, un fondo che praticamente non c'era l'anticipazione, cioè stavi a casa, tuttora fino al 12 giugno sarà così, stai a casa per 4, 5, 6, 7 fino a 9 giorni al mese e ti vedi proprio in busta paga che ti mancano 9 giorni secchi di stipendio, che poi ti verrà retribuito fino al 50% della giornata con i tempi biblici dell'INPS. Quindi non è una cosa bella da accettare, perché noi, ripeto, noi campiamo le famiglie di questo lavoro, c'è gente che ha il mutuo, che ha figli. Ecco, ma perché, quindi, Giovanni, perché se riesci a spiegarcelo, c'è questa crisi? Te lo spiego velocemente. Allora, noi lavoriamo in outsourcing, cioè lavoriamo su commesse, ci sono dei committenti che periodicamente mettono a gara le commesse, sì. e quindi la mia azienda partecipa alle gare. Cioè, per intenderci, non siete interni a delle aziende, ma tutte le aziende chiamano qualcuno esterno, ovvero voi, per fare il servizio di call center. Si chiama outsourcing. Sì, lo so. Che noi la mattina presto le parole in inglese facciamo sempre difficoltà a comprenderle. Quindi, come funziona? Funziona che noi subiamo la delocalizzazione. La delocalizzazione che cos'è? Ci sono aziende che per ridurre il costo del lavoro cercano manodopera a basso costo in paesi dove appunto il costo del lavoro è nettamente più basso rispetto all'Italia. Parliamo l'Albania, per dirne una, ma anche altrove. Romania, sì. Parliamo di un costo del lavoro più basso del 70%. E infatti, quindi, noi spesso abbiamo questa esperienza al call center di parlare con qualcuno che parla formalmente italiano, devo dire a volte anche abbastanza bene, però poi ti rendi conto che più di tanto la conversazione non la puoi approfondire, non la puoi portare da nessuna parte, perché dall'altra parte è uno che sta leggendo sostanzialmente un foglio e non sa quello che sta dicendo. Mi dispiace dirlo, ma è così, d'altra parte una lingua non si impara, non si improvvisa, e quindi subite questa concorrenza che fa sì che le aziende come la vostra, l'Alma Viva, siano in difficoltà, cioè una difficoltà proprio strutturale di mercato. Allora, il governo, Calenda, Gentiloni, che cosa hanno detto? Che cosa hanno proposto? Entriamo nel merito. Sì. Allora, ritornando all'accordo, ancora una volta è stato chiesto uno sforzo economico ai lavoratori del sito di Palermo, che rispetto a prima, quantomeno adesso, hanno fatto un investimento per il futuro. Mi spiego meglio. Allora, noi abbiamo fatto questo accordo, che ripeto non è il massimo, ma sicuramente ci permette di mantenere il perimetro occupazionale e di andare avanti, e ci permette di esserci e di vedere questi cambiamenti che stanno appena iniziando. Nel senso che Ci credete, Giovanni? Ora ti rispondo. dobbiamo crederci, assolutamente. I primi di maggio perché è stato l'impegno, però spieghiamo alto, una eh? Cosa perché sennò chi ci sta ascoltando, cioè spieghiamo che voi avete rinunciato a 4 scatti di anzianità in meno noi, in un anno, avete rinunciato alla cassa integrazione e poi subito avete congelato il TFR per un anno. Vedo che tu sei preparato. Allora, l'accordo prevede appunto per un anno, quindi a partire dal 1° di giugno fino al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31 maggio del 2018, prevede il congelamento del TFR per un anno, sì, e 4 scatti in meno, e quindi considera che 4 scatti sono l'equivalente di 24 euro per scatto. Noi maturiamo uno scatto ogni biennio, possiamo arrivare fino a un massimo di 7 scatti. Quindi, riepilogo, 4 scatti in meno, il congelamento del TFR per un anno e la cassa integrazione straordinaria che partirà dal 13 giugno 2017 fino al 12 giugno 2018. No, dall'altra parte però, l'obiettivo è arrivare fino al 31 maggio del 2018. Ah, va bene. Dall'altra parte però ricordiamolo, Giovanni, quello che stavi dicendo tu prima, che c'è l'impegno del governo a riportare in Italia, addirittura si legge tra l'80 e il 90% dei servizi che adesso sono stati esternalizzati in Italia. Per quello che io ti chiedevo se ci credete. Penso che ci crediate, altrimenti non avreste avallato questo accordo, ma era una domanda, come dire, ci sperate, pensate che possa avvenire, vedete che qualcosa si sta muovendo? in questa direzione? È finalizzato appunto a stare sul pezzo. Come funziona? Hanno fatto un accordo i 13 committenti più importanti, che hanno il 65% del mercato italiano, sì, hanno fatto una sorta di moral suasion, un impegno a fare rientrare attività dall'estero e comunque lavorare attività da un minimo dell'80% fino ad arrivare al 95% in Italia. Ecco, e questo è il punto, e noi speriamo, facciamo un appello, lo rivolgiamo alle aziende, alle grandi aziende che hanno bisogno di call center, che hanno preso questo impegno insieme al ministro Calenda, insieme al governo, insieme a voi lavoratori, a Gentiloni, certo, di riportare in qualche modo in Italia una parte di questi servizi che sono stati esternalizzati per ragioni economiche. I call center sono importanti, sono importantissimi, ormai nessuno di noi potrebbe pensare di vivere senza, e quindi bisogna investire anche su questo tipo di risorse umane. Sicuramente è l'auspicio vostro, ma anche il nostro, speriamo, staremo a vedere. Grazie intanto Giovanni Gorgone. Grazie mille della Alma Viva che sì, mi avete dato, e speriamo bene, noi ci crediamo, incrociamo le dita, incrociamo le braccia, le tutto incrociamo le cornette, direi, a questo punto, visto sì, che siamo sui call center. Grazie. 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete raccontarci le vostre esperienze col call center, oppure se questo si può fare, vi ha convinti l'accordo Alma Viva, riduzioni di stipendi, avete sentito, in attesa però di come dire, riportare in Italia le condizioni perché le aziende dei call center possano pagare dignitosamente questi lavoratori. 800 24 00 24, noi siamo qua tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, l'SMS 3492386666 ci scrive per esempio Max, che dice: quando scopro che il call center è dall'estero e non sa darmi informazioni pertinenti, pretendo capiscano, sappiano cosa dicono, perché propongono un servizio che poi dovrò pagare, giustamente, diversamente non prendo in considerazione l'offerta, pretendiamo un servizio o non compriamo nulla. Si può fare. Bravo Max. Penso anche che prima o poi, sì, bisognerà occuparsi di questi altri call center, perché come ci ha appena spiegato Giovanni Gorgone, negli altri paesi, quindi in Albania, i lavoratori dei call center guadagnano il 70% in meno. Siccome abbiamo capito che non è che i nostri siano proprio strapagati, mi chiedo quanto siano pagati in Albania o in Bulgaria, nel senso che evidentemente gli danno 80 euro al mese. Prima o poi bisogna occuparsi anche di loro. Gianfranco da Roma, buongiorno, eccomi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Qua. Allora, per il consente io ho chiamato poche volte, anzi non mi sono mai interessato. Il discorso è questo, stamattina vi ho fatto, intervengo. Allora, il consente è un rompiscatole. Cioè, questo è, lo devo dire subito, perché nei momenti della giornata, a pranzo, sì, la cena, di notte, nei momenti in cui sta a fare la doccia, uno si fa... Ti chiamano nei momenti più assurdi. Però pulizie, Gianfranco, il call center è quello che ti chiama lui, quello che ti chiama lui. Poi c'è il call center che chiamiamo noi quando abbiamo bisogno di un servizio, quella è un'altra cosa. Ma raramente. Sì. Però quando capita, per esempio, con i servizi di Amazon, mi danno, sì, la Romania, l'Egitto, di alcuni tutto, sono italiani che stanno in quei paesi, alcuni invece sono proprio locali e non ci capiscono niente, proprio assolutamente niente. Il linguaggio italiano è dimenticato. Ecco, uno. Sì. Secondo, sì, quando io parlo col consente, cerco di essere il più chiaro possibile, e certe volte invece richiamano, specialmente quelle delle offerte telefoniche. Io ho, per esempio, sono abbonato, sono vecchio, un pensionato della TIM, Telecom, e quindi il telefono mi serve, certo loro non lo sanno, però capire bene che tu mi chiami a questo numero fisso, e mi chiami due volte, tre volte, il giorno dopo mi richiami un'altra volta, vuol dire che voi la mano sinistra non sa quello che fa la destra. Basta, non chiamate più Gianfranco da Roma, perché cioè, ve l'ha detto anche via radio, non ha bisogno di alcun servizio telefonico. Sì, ricordiamo, come stavi ricordando, sì, tu, che in realtà fondamentalmente, al di là di quelli che chiamano per venderti qualche cosa, noi ci stiamo occupando di quelli che invece chiamiamo noi per risolvere, sì, i problemi. C'è Tiziana che ci scrive: alcuni servizi telefonici alla risposta affermano la possibilità di parlare con un operatore in Italia, giusto? Si ricordava anche prima, mai riuscita, dice lei, ma credo che le aziende stesse non vogliono dare risposte diverse dalla lettura di un foglietto. Infatti, come dicevamo, spesso si ha la sensazione che stiano leggendo un foglio e fanno finta di essere riescono... stranieri, tu dici, cioè, in realtà sono di Bergamo, però fanno finta di essere stranieri di modo che uno fa meno domande. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche per raccontarci le vostre proposte di matrimonio fatte o ricevute pubbliche, però, perché c'è un'epidemia di dichiarazioni pubbliche davanti a tutti, davanti a amici, colleghi di lavoro, via social. Avete ricevuto o fatto una proposta di matrimonio via Facebook? 800 24 00 24. Tra poco andiamo a Taormina. Ah, tra l'altro, notizia di pochi secondi fa: non ci sarà la conferenza stampa finale nemmeno di Trump. Non la fa la Merkel, non la fa neanche Trump, non lo so chi farà la conferenza, forse solo Gentiloni rimarrà lì da solo, mentre se ne stanno andando tutti attorno a lui. Portami dove mi devi portare, Africa, Asia o nel primo locale. Fammi vedere che cosa vuol dire partire davvero. Portami dove non posso arrivare, dove si smette qualsiasi pudore. Fammi sentire che cosa vuol dire viaggiare leggeri. Sei sempre così, il centro del mondo, il viaggio potente nel cuore del tempo, andata e ritorno. Allora, il centro del mondo è sicuramente Taormina in queste ore, in questi giorni, ieri e oggi. Qui si sta svolgendo un G7. In una città che è una vetrina per l'Italia, la Sicilia, Taormina, è una città d'arte, di storia, di cultura, di turismo, dove però non c'è una libreria. Non c'è proprio una, neanche una libreria. Cioè, noi speriamo sempre che ci sia, perché in realtà siamo sempre lì per aprirla. E cosa è successo? Lo chiediamo ad Antonella Ferrara, che è la titolare della libreria Bucolo di Taormina, storica libreria che però ha chiuso ormai quanto tempo fa. Antonella, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi, grazie, buongiorno. Buongiorno. Da quanto tempo la tua libreria non c'è più in realtà a Taormina? Dal mese di ottobre del 2016, quindi dal 31 ottobre, ahimè, abbiamo chiuso le porte. Sembrava però tutto risolto, perché a un certo punto si era, sì, trovato uno spazio, perché tu chiedevi di trovare uno spazio con un affitto che fosse, diciamo, alla, sì, portata di una libreria. Canone, sì, sappiamo che le librerie hanno, insomma, cercano di stare in piedi, non è facile, perché è un commercio che in qualche modo è in crisi, però sono anche punti di socialità, di raccolta. Non può non è. Ora, Trump non se ne sarà accorto, perché ieri girava per Taormina in auto elettrica, mentre gli altri leader erano a piedi, a passeggio. Gli altri però se ne saranno accorti, i delegati, che in tutta Taormina, 12.000 abitanti, non c'era libreria. Soprattutto ricordiamolo, come stavi giustamente dicendo tu, Alessio, che già tutte le librerie sono dei presidi della cultura. Questa libreria nello specifico era assolutamente una sorta di officina culturale, anche perché è l'unica libreria nel raggio di 60 chilometri, se non sbaglio, giusto? Esatto. E poi comunque sul numero di abitanti, è vero, sono correttamente 12.000, ma per 6 mesi d'anno sono molti di più, perché saranno più del doppio, cioè, esatto, certo. Quindi è ancora più grave, a mio parere. Certamente sì, le delegazioni hanno cercato la libreria e lo chiedevano soprattutto gli albergatori, che sono il loro primo punto di contatto, no? Quindi che gli forniscono un po' tutte le informazioni anche sulla logistica. E ahimè non l'hanno trovata. Ora, ma c'era questo palazzo, però, esatto, non vi avevano dato Palazzo Ciampoli? Facciamo, allora, l'aggiornamento, sì. Sì, è corretto, quindi l'assessore regionale beni culturali aveva disposto una porzione, una piccola porzione corrispondente proprio a quello che si definisce bookshop all'interno di un palazzo museale, dedicato appunto alla nostra libreria per permetterne la riapertura. Ma non vi siete spaventati? Siete la libreria Bucolo, va bene anche un posto piccolo, no? Sì, diciamo che anche la precedente aveva dimensioni ridotte, quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Perdona, no, mi t'ho interrotto. Ma no, hai detto bene. Tra l'altro, in questa piccola libreria avevamo più di 10.000 titoli, perché avevamo i libri in terza fila, pur di essere offerta un'offerta, diciamo, quanto più completa, quindi le dimensioni non la rendevano meno competitiva, ecco questo. Il problema di Taormina è il traffico, sono i libri in terza fila. Eh sì, è quello, esatto, ci vuole qualcuno che governi il traffico. E quindi, come vi dicevo, purtroppo questa questione, questa disponibilità politica si è inceppata con un muro amministrativo. Ma perché? La burocrazia. Ma sempre la solita questione, davvero? Perché a quanto parte, ma tra l'altro mi è arrivata una proposta di convenzione scritta da parte dell'ente, che io naturalmente ho subito sottoscritto, e poi doveva essere controfirmata dal dirigente generale. Sì. Che però a quanto pare si è preso ben novembre, dicembre, quasi 6 mesi. Ora, noi sappiamo che fare le cose di corsa non porta bene. Guarda cosa è accaduto a Franceschini con i musei. Ha firmato un decreto per fare questo bando, poi è andato tutto a monte perché c'era un regolamento che non è stato rispettato, che è saltato fuori il TAR, eccetera. Quindi, ora però, non esageriamo. Cioè, qua quanti mesi è che stai aspettando questa controfirma? 6 mesi. Da novembre. Perché ci siamo sentiti esattamente 6 mesi fa. Alla regione Sicilia noi facciamo un appello, perché non è che può andare così, che noi facciamo ci promettete la sede. D'inverno si promette Palazzo Ciampoli, ed estate però si scappa e si va al mare. Tutti felici, abbiamo festeggiato, e poi sono passati 6 mesi e ancora la libreria Bucolo non ha la sede promessa. Che facciamo? Sì. Ma tu ci credi ancora, Antonella? Ci speri? Ma guarda, io credo che in effetti l'assessore ha effettivamente la volontà di risolvere il problema, tant'è che prima di fare l'annuncio aveva anche trovato la quadra amministrativa, come si fa, che non si fanno annunci così, quindi lui aveva correttamente seguito questo iter. E io non ho capito se è uno scontro interno, insomma è proprio un funzionario che si è messo di traverso. Lui, perché poi nel frattempo tu hai anche investito, perché per portare avanti la tua attività, che hai investito in un franchising. Sì, ma questo è la precedente. Questa è comunque la precedente. Ho tenuto in piedi il contratto, al quale io comunque devo dare delle risposte. Cioè è un contratto che ha un costo, cioè una promessa. Okay. Ricordiamo, tu vuoi pagare l'affitto, non è che vuoi un posto a gratis, non è questo di cui stiamo parlando. Un posto normale. Esatto, tra l'altro la convenzione prevede un canone che era stato concordato tra le parti, quindi non mi si dice nulla, né non si può fare nulla, né andiamo avanti. Ormai però siamo anche alle porte di Tao Book. Tra l'altro, uno dei problemi era non far sì che il festival, che inizia il 24 giugno, potesse anche avere il supporto di una libreria, come è normale che sia. Ricordiamolo, è un festival fondamentale, il festival Tao Book, che organizzate voi ormai da un sacco di tempo e che dovrebbe iniziare a fine giugno, e quindi almeno per quella data speriamo. Ma possiamo chiamarlo questo funzionario? Bisogna mandargli delle mail, non so, come possiamo aiutare? Risponde un call center. Lo chiamiamo insieme, così gli facciamo una piccola sorpresa. Sicuramente capire anche il perché, il motivo ufficiale, visto che non risponde a nessuno, cioè non risponde le email, e quindi chiamarlo al telefono forse potrebbe aiutarci a capire se è un problema suo, cioè... Insomma, ci avete lì tutti, fatelo chiamare da Trump, fatelo chiamare da qualcuno, subito! Forse da Trump sarebbe l'idea giusta, potrebbe essere la svolta. Stiamo accumulando una figuraccia internazionale, non dico come, incredibile, perché domani fra l'altro c'è uno sciopero dall'Italia, quindi quei delegati internazionali del G7 che volessero rimanere in giro ancora un giorno, oltre il vertice, non possono partire, restano tutti a Taormina e senza libreria. Finché non si apre la libreria, secondo me l'Italia non li deve portare via. Torneranno a casa dicendo: oh, non c'era neanche una libreria in tutta Taormina. È una cosa pazzesca. Questa è la vera figuraccia internazionale del G7. Noi siamo con te, Antonella, come sempre. Se ci sono delle notizie, siamo qua. Rilanciamo l'appello alla regione, insomma, e al funzionario che firmi. Firma sto foglio. Antonella Ferrara, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. 800 24 00 24, noi siamo qua dopo il GR. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato. Ma quanta violenza che passa in tele. Però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio. Giuro, stavo diventando pazzo. Ci pagava malapena l'affitto. In Italia non funziona un cazzo. Sognavo nella tasca. Ho vomitato le rime più crude. Che brutta vita fanno i cantanti. A 15 anni oggi tutti youtuber. E questo è il ricambio generazionale. Se segui ricambio rapper nazionale. Corro sulla fascia. La moda divide, la gente si lascia. Al passo con i Kardashian. Dove sei? L'estate comincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città. Pace agli uffici e alle università. Vediamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toia Pampona. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24. E questa che abbiamo appena ascoltato, che stiamo ancora sentendo in sottofondo, è Pamplona di Fabri Fibra e The Giornalisti. Canzone che ci è stata suggerita da Massimo perché con il caldo di questa settimana, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, si sente l'estate che arriva. Come sapete, noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica. Quindi se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori, vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, beh, vi chiediamo di segnalarcela, di inviarcela in qualche modo. E in quale modo? Potete farlo mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it, così poi noi la faremo ascoltare, la metteremo sui nostri social, oppure ce lo potete dire attraverso i nostri social, ovvero su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure su Twitter @ Si può fare 24, oppure sui nostri account personali, sul mio di Facebook dove sono Carlo Giuseppe Gabardini, o su Twitter che è @ Carlo Gabardini. E poi abbiamo anche il piccione viaggiatore e quant'altro. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, vi aspettiamo e cominciamo subito a sentire Antonio dalla provincia di Foggia, poi avremo Giovanni. Stamattina siamo partiti dalla questione dei call center, firmato un contratto, un accordo di lavoro per, tra i sindacati e i lavoratori dell'azienda dell'Almaviva. Insomma, c'è tutta una serie di questioni sul tappeto. Antonio dalla provincia di Foggia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, si parlava di proposte di matrimonio. Sì, sì. Allora, la mia è un po' particolare. Io ero con l'attuale mia moglie da 13 anni. Eravamo fidanzati. Sì. Siamo andati a un allora, avevamo comprato, premetto che avevamo comprato casa in cui non abitavamo, era lì. Mai parlato di matrimonio, mai. Sì. A un certo punto siamo andati al matrimonio di mio cugino, in un ristorante, abbiamo cominciato a mangiare. Ho guardato in faccia a mia moglie, ho detto, ma sai che qui si mangia proprio bene? Che facciamo, ci sposiamo anche noi? Ecco la mia, la mia proposta. Cioè, la tua proposta di matrimonio in realtà praticamente è un invito a cena. Galeotto fu l'antipasto. E lei ha detto sì, ovviamente, sì. Ha detto sì, mi sono alzato. Sono andato dal proprietario del locale e questa è una cosa vera, la data era il 2007, ci siamo sposati nel 2008, la data 448, cioè un matrimonio fatto in 448. Io mi sono sposato il 4 aprile del 2008, è tutto vero. Ma la storia è perfetta assolutamente, e tua moglie ha detto subito di sì o ha aspettato il secondo? Io penso che era sfinita dagli anni, a un certo punto ha detto certo, possiamo. Beh, insomma, dopo 12 parlato, anni, dopo 12 anni non è stato proprio una sorpresa. Quanta gente c'era attorno a voi in quel momento lì? Eravamo 10 persone, la gente ha detto: ma sì, stai dicendo sul serio? Ma nessuno ti ha accusato di essere stato poco romantico? No. Perché l'hai fatta un po' così. Stato, non lo so, il palato, l'acquolina ha detto mi ha spinto. Ci deve essere qualcosa che innesta. Non è stato preparato. Ho fatto altre cose romantiche a mia moglie negli anni. Il palato e la colina, molto bello. Vabbè, comunque l'originalità ti ha premiato. Antonio, grazie, complimenti. Grazie. Lo mettiamo agli atti. Giovanni da Verona, sentiamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi signori. Eccolo, buongiorno. Allora, niente, la mia è stata un po' una richiesta un po' singolare, diciamo, perché eravamo andati fuori a cena con un gruppo di amici. Sì. In questo, tutti questo a cena, locale. Tutti a cena avete fatto la proposta. Sì. La cosa bella è che quando si partiva per questo locale qui, io in automatico davo le chiavi al mio amico, le chiavi della macchina, perché sapevo già che mi dovevo sfasciare. Certo. Sfasciare, la parola tecnica è sfasciare. Esatto. E invece il tuo amico è astemio, noi vogliamo sperare. Esatto, sì. Lui è astemio, lui è astemio. E in questo locale qui, dove pagavi una cifra, diciamo, modica di 20 euro, avevi diritto a 3 litri di birra, più la bottiglia di limoncello, no, scusa, alla fine. Giovanni, che posti frequenti tu? 20 euro, 3 litri di birra? Sì, è un locale che è qui vicino. In Germania, a Monaco di Baviera. No. È qua a Mantova, È un locale che ha il massimo record di proposte di matrimonio, perché con 20 euro, dopo 3 litri di birra, una bottiglia di limoncello, in più tutta la cena, uno dice, vabbè, sposiamoci, cosa costerà? 7,50 euro. Questa è inventata, Giovanni, di la verità, questa è inventata. No, ragazzi, veramente, voi pagate 20 euro, sì. Allora... vi offrono 3 litri di birra, cioè tu hai diritto a 3 litri di birra, sarebbe un litro di birra per ogni persona occupante al tavolo, ok? Perché la maggior parte non beveva. Ha bevuto tutto tu. Esatto. E poi hai chiesto a tua moglie, alla tua fidanzata di sposarti. Esatto, immagino. Mi sono alzato, sì. Immaginiamoci in un contesto, diciamo, rustico, dove c'erano tipo 90-100 persone a fianco e... se mi sono alzato, mi sono inginocchiato, la mia ragazza mi fa, cosa stai facendo? E detto, niente, ti sto semplicemente... pensava che tu stessi... vabbè, non dici... ah, perfetto, quindi ti ha bruciato la battuta, come esatto. Abbiamo fatto adesso noi in radio. Cioè, ti ha bruciato la battuta, tu gli hai detto semplicemente... sto chiedendo di sposarti, questo le ho chiesto, è stato bellissimo. E cosa ha risposto? Beh, mi fa, è rimasta... cioè, il locale è rimasto in silenzio, poi vabbè c'è stato l'applauso ovviamente... lei ho cominciato a piangere, però è stata una cosa veramente... non ero in me, ok? non lo dire troppo, che non ti fa onore tutto ciò. Lo so, infatti anche dove lavoro io e i miei colleghi, il mio capitano stesso... me ne hanno dette di ogni, però devo essere sincero, ci sposiamo il mese prossimo, che volete? Quindi siete ancora a metà del guado, a metà del viaggio. 24 giugno. Quindi ti ha risposto, direi, affermativamente. Comunque mi fa, sì. Mi fa morire, Giovanni, perché è una risata, cioè... parte così, all'improvviso, sì, pam, e ride. Allora, io sono una persona molto solare, ho sempre il sorriso in faccia. Beh, anche se magari ho una giornata brutta, no... non mi va qualcosa, però io il sorriso ce l'ho. È una cosa che ho ereditato dai miei genitori. Diciamo. Allora ci segniamo il tuo numero, che ti chiamiamo quando non riusciamo a trovare una buona notizia. Va bene, allora sono felice di rispondervi allora. Allora, grazie. Come vedete, le telefonate degli ascoltatori all'800 24 00 24 confermano che c'è una voglia di condividere anche un momento normalmente, tradizionalmente romantico come quello in cui si chiede alla propria fidanzata o al fidanzato di sposarla, di condividerlo e farlo diventare un momento pubblico. C'è un'epidemia di dichiarazioni di amore e di proposte di matrimonio pubblica. Allora noi questa mattina vi chiediamo le vostre all'800 24 00 24. Tra poco. Procede per esperimenti, questo è un grande giorno da vivere, io ci voglio credere, questo è un grande giorno da vivere, senza limiti, senza fiato, tutto giusto, tutto sbagliato. We'll be right back. palatina che ha tensione, può scoppiare con la minima pressione. Il posto è caldo, il pavimento è umido, non è il momento per un sentimento timido. Suona la sveglia, sono sveglio da sei ore, lo sai cos'è? Sono un predatore, giro di notte come un lupo solitario, senza orologio e senza calendario. Ogni mio atomo è una festa di elettroni, è la fisica delle emozioni, è la scienza, bellezza, si procede per intuizioni. Allora, questa mattina conosciamo una persona, una donna, una ricercatrice, una scienziata italiana, una ricercatrice in biologia, che ha fatto una scoperta che potrebbe avere delle applicazioni tecnologiche interessantissime, perché i titoli che hanno scelto i giornali sono questi: scopre il bruco che mangia la plastica. Niente proprio di meno che Federica Bertocchini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, così è nata per caso la mia ricerca, ma non sarà nata per caso, non credo. No, la storia è bellissima di come nasce. È avvincentissima, anche se ci sono degli intoppi, come sempre quando parliamo di ricerca, ahimè, non tutto fila liscio. Però il bruco che mangia la plastica, già uno se lo immagina, no? Cioè, è quello che pensiamo? In che senso? Sì. Cioè uno si chiude gli occhi e si immagina che ci sia un bruchettino che si mangia la plastica e quindi sì, in qualche modo la smaltisce. Sì, la degrada, noi abbiamo visto che la degrada, rompe il legame chimico, sì, è vero, sì, mettendo il bruco in sacchetti di plastica si riempiono di buchi. Ma ci racconti la storia di quando scopri questa larva della cera? Sì. Perché tutto nasce dal fatto che sei apicultrice. Sì, esatto, tutto nasce da quel fatto di, come hobby, nel tempo libero io ho i miei alveari ed inverno li tengo in casa, quindi al calduccio. Senza, certo, alveari, uno di giorno fa la biologa e poi come hobby si occupa di alveari, cioè... Una PlayStation mai, una serie TV, una roba così che facciamo noi buona a nulla. No, api, assolutamente, animali, natura, questo va bene. Beh, e niente, quindi nel pulirli ho trovato che i miei pannelli di cera erano infestati con questo bruco, che è una cosa abbastanza naturale perché è un infestante, appunto, questo bacco della cera. E quindi l'ho pulito, l'ho messi in un sacchetto di plastica e di lì a poco ho visto che c'erano pieni di buchi, i sacchetti di plastica erano bucati e i bachi erano in giro per il mio appartamento. C'erano mangiati oltre che la cera anche la plastica del sacchetto. E in questo classico momento dove chiunque di noi, Alessio ed io, sicuramente urleremmo semplicemente perché si è bucato un sacchetto della spazzatura in cucina, è un dramma pazzesco, il mio problema sarebbe come faccio a dirlo a mia mamma, invece tu cosa pensi? Questo va studiato, quindi ho chiamato il mio collaboratore Paolo Bombelli, che questa cosa è stata fatta da noi, insomma anche Paolo ha la stessa importanza nello sviluppo del progetto e ci siamo messi a studiarlo, però in realtà la storia è un po' più lunga di così, nel senso che io e Paolo era già qualche anno che stavamo pensando a una qualche possibilità di biodegradare la plastica, qualche insetto, qualche bestia. Quindi l'intuizione non è arrivata a caso, è arrivata sul terreno fertile. Esatto, quindi appena ho visto quello, vai, qui ci siamo, qui va studiato. E quindi sono messa a studiarlo. Tu in quel momento lì lavoravi a Cambridge o sbaglio? No, già in Spagna. Ero già in Spagna perché tu hai lavorato in diversi paesi, se ho capito bene, in Gran Bretagna, anche in America. E in quel momento lì eri in Spagna e questo lavoro che stavate facendo, unitamente a questa scoperta quasi fortuita di questo baco che oltre a mangiarsi la cera delle api si mangia anche la plastica, ti ha aperto le strade per degli assegni di ricerca e per arrivare fino alla scoperta vera e propria. Ma è così? In realtà non esattamente, nel senso che io avevo il mio assegno di ricerca, sì, diciamo, di 5 anni più 2 del sistema spagnolo, l'equivalente del CNR spagnolo, sì, e portavo avanti la mia linea di ricerca principale, che è biologia dello sviluppo. Questa ricerca è stata fatta, questa scoperta casuale, sì, è stata portata avanti proprio come il side project, no? Il progettino dal lato che si fa nel tempo libero, la sera, quando uno ha un po' di tempo, e questo sia da parte mia sia da parte di Paolo e Chris, che sono gli altri due collaboratori. Giusto ricordare. Quindi, anche loro, certamente. Assolutamente. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché effettivamente io i fondi per questa ricerca non c'era, abbiamo speso effettivamente pochissimo, quindi ognuno di noi faceva le sue cose e nel contesto, in parallelo, portavamo avanti quest'altro. Ecco, ma sempre per hobby, sempre nel tempo libero, uno si occupa di trovare il modo per distruggere tutta la plastica nel mondo. Ma adesso a che punto siete con questa scoperta? Adesso siamo al punto di cercare fondi, cercare soldi per continuare la ricerca. Questo è il problema. È questo il problema. E qui finalmente effetti, lo stesso problema che abbiamo tutti che noi. Abbiamo noi, esatto. No, qui arriva l'altra metà della notizia, perché l'altra metà della notizia è che siete rimasti, sei rimasta praticamente a piedi, possiamo dirlo. Sì. Sono. Beh, è stato un po', perché mi dicono un paradosso, ma neanche tanto. È una coincidenza che il mio contratto finisse ora e uscisse questo lavoro. Però è una brutta, non è una bellissima coincidenza. Non è una bellissima coincidenza, ma essendo un sistema pubblico, il sistema pubblico funziona così, si va a concorsi, quindi questo sì. E giustamente è così, si va a concorsi, però in Spagna i concorsi negli ultimi 7 anni sono stati ridotti al minimo con i tagli. Ma infatti, perché cinicamente mi verrebbe da dire, vedi, non siamo gli unici che tagliano, perché si dice sempre che in Italia non ci sono fondi per la ricerca, la quando c'è di mezzo la ricerca, tutto il mondo è paese, cioè tagliano tutti. Sì, ma anche paesi che sono più facoltosi, che tutto in proporzione, quindi tutti tagliano, poi chiaramente in Spagna, ora in Italia io non sono molto al corrente, quindi sì. Però in Spagna hanno tagliato brutalmente, quindi non ci sono concorsi, ce n'è uno ogni anno e mezzo per aree di ricerca enormi, che ne so, neurobiologia e cancro per esempio, e quindi un posto solo che si dividono diversi istituti e una lotta, quindi c'è anche gente brava, devo mettere in evidenza questo, c'è gente molto brava, spagnoli, non solo stranieri, che sono stati costretti o vanno via o si riciclano qualcos'altro o smettono. Quindi, guarda, se posso farti un complimento, ti fa onore anche questa tua reazione, perché moltissime persone avrebbero subito urlato allo scandalo, ma come, io che ho trovato il bruco per la plastica, e invece tu hai una reazione che devo dire, in realtà sappiamo tutti che la situazione è tragica e terribile, se vogliamo, però giustamente tu la oggettivizzi, dici in questo settore comunque va così, non è che c'è un complotto, non è che vogliono punire, è semplicemente che è finito. Si vede che è stata in Gran Bretagna e ha imparato il fair play. Forse sì, molto giusto. Questa cosa ti fa onore, non sto dicendo che quindi uno debba mollare il colpo, adesso bisognerà trovare un modo. Anzi, facciamo un bel appello, perché qua tu l'hai detto, no? Se qualcuno, così a caso, qualcuno volesse investire nella mangia plastica, noi siamo qua, è così. Sì, ma abbiamo ricevuto tanti messaggi di solidarietà e anche di interesse, quindi ora noi pian pianino, ora ci vuole un po' di tempo, stiamo cercando di riorganizzarci, mettere insieme le idee, vedere cosa si può fare. In realtà sì, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, di se vi aiutiamo, facciamo qualcosa, ma proprio tanti, è stato proprio bello questo. Noi speriamo che torni in Italia, possiamo fare un po' i campanilisti? Certo, anch'io. Quindi c'è qualche possibilità concreta, non ci vuoi dire qualcosa di più? Concreta ancora non c'è niente, quindi non c'è proprio me la inventerei. C'è un posto da benzinaio, mi sembra, ancora libero. vado. Però insomma ci sono delle manifestazioni di interesse, come si direbbe per l'Italia, ci sono anche per voi. Federica, bene. Senti, tu hai girato anche un po' il mondo, no? Dicevamo, hai lavorato, se ho capito bene, in Spagna, ovviamente, in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti. Anche in Italia hai lavorato un po'? Sì, ho fatto il dottorato al DIBIT, che è l'istituto di ricerca del San Raffaele a Milano. Ecco, ma dov'è che ti sei sentita più a casa, più a tuo agio, come scienziata, come ricercatrice? Allora, c'è un posto? Difficile, allora il DIBIT l'ho fatto negli anni 90, penso sia ora sia uguale o migliore, è un'ottima struttura, proprio all'avanguardia, perché poi da lì sono andata alla Columbia University, fino a New York, e il passaggio l'ho sentito poco, come strutture, come investimenti, è proprio una bella struttura. È una bella notizia questa, penso che ci registreremo questo audio, ogni tanto ce lo riascolteremo quando sentiamo che la ricerca in Italia non funziona. Scusa, vai. No, assolutamente, poi all'estero, vabbè, sono stata in posti, la Columbia University a New York, chiaramente ottima, a Londra la University College, sono tutti posti buoni, ma la ricerca è legata agli investimenti, se ci sono risorse chiaramente si lavora meglio, questo è. Ora mi trovo in Spagna, nella provincia, e si lavora chiaramente peggio, cioè, non c'è un segreto in questo, ci sono risorse si lavora bene, se ci sono poche risorse si lavora bene. Speriamo che arrivino delle risorse, speriamo che arrivino per te, per Paolo e per Chris, il trio di ricercatori che mangia la plastica. In bocca al lupo, grazie. Federica Bertocchini, grazie veramente, per essere stata con noi. Grazie, noi ci speriamo molto in questo bruco, moltissimo, che mangi la plastica insieme al miele. e anche noi. Grazie. Staremo a vedere. Insomma, intanto abbiamo conosciuto una donna, una ricercatrice, una scienziata italiana in gamba, brava, molto brava, che ha fatto questa scoperta e che però adesso bisogna che qualcuno si faccia avanti per dargli una mano, perché avete sentito, la ricerca è così, cioè non esiste un paese di per sé accogliente per i ricercatori, per gli scienziati, dove c'è il grano, esatto, dove qualcuno investe, perché bisogna dare fiducia, farli lavorare magari per anni, non scoprono nulla, poi per caso scoprono che il bruco mangia plastica. E a quel punto bisogna investirci dei soldi e giustamente. Comunque è veramente molto, molto brava lei a prenderla in questo modo, è veramente un si può fare lei, Federica Bertocchini. 800 24 00 24, tra poco ci sentiamo di nuovo, cari ascoltatori, anche per raccontarci le vostre proposte di matrimonio ad uso e consumo pubblico, per esempio dei social. 800 24 00 24, l'ultima è quella di Pepito Rossi, l'avevamo detta, perché c'è stata la Ferragni e Fedez, c'è stato il calciatore del Matera che ha interrotto la partita, il parlamentare inglese due giorni fa, l'ultimo il calciatore Pepito Rossi inginocchiato in una spiaggia, non so dove, negli Stati Uniti credo, via Instagram, ha fatto sapere a tutto il mondo che aveva appena chiesto la mano della sua futura moglie. Sempre più difficile all'estero, via Instagram. Ma una volta si facevano le cose testa a testa. Uno si dimentica di guardare un social e scopre di essersi sposato. Aspettiamo la tua di dichiarazione di proposta di matrimonio, Carlo. Molto volentieri. L'hai già fatta pubblicamente una volta qua con la Cirinna. È vero. Aspettiamo, è vero, che arrivi. È vero. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24 per commentare le notizie di questa settimana, i call center, l'accordo all'Almaviva, salvi posti di lavoro a Palermo, 2800 lavoratori. Ne siamo felici, siamo partiti da qua. Poi abbiamo appena parlato con la ricercatrice Federica Bertocchini, una bella storia la sua, speriamo che qualcuno si faccia avanti per finanziare la ricerca sul bruco mangia plastica. E anche allora, una bella persona, molto brava. Sì, sì, sì, assolutamente. Tra poco Crowd Me Up, adesso 5 buone notizie di questa settimana per invertire il senso di rotta della settimana. Tra l'altro confermato, non c'è la conferenza stampa di Trump al G7, non c'era neanche quella della Merkel, quindi non sono proprio buone notizie quelle che arrivano da Taormina, credo, forse, ma noi ce le abbiamo 5 buone notizie, si può 5. Allora, eccole qua. Il ministro per i beni culturali Franceschini, appena fresco di un insuccesso perché il suo decreto per la nomina dei direttori dei musei internazionali è stato bocciato dal TAR del Lazio, si può consolare così perché a Pompei c'è un nuovo avanzamento dopo che sono stati fatti i lavori, messi in sicurezza i cantieri, riaperte tante domus eccetera. Adesso ci sono anche, un po' come all'IKEA, i baby point, cioè puoi andare a cambiare il bambino, ci sono tre casette con i divanetti, i fasciatoi, per consentire insomma alle famiglie di poter cambiare il bambino, il Pompei che diventa anche family friendly. Molto bello. Quinto posto. Al quarto posto invece andiamo in Toscana, funziona, pare che funzioni il dissuasore ad ultrasuoni alimentato dal fotovoltaico che tiene lontani i cinghiali dalle vigne e dalle altre culture. A dirlo sono gli agricoltori, quindi i diretti interessati di Confagricoltura, dopo la sperimentazione fatta in Chianti e San Rossore. I primi risultati di questo progetto ultra rap essendo positivi, a questo punto il gruppo di lavoro sta delineando un piano strategico per introdurre questa tecnologia ad ultrasuoni su scala interaziendale, certo, perché diventa importante soprattutto che non solo vengono tenuti lontani i cinghiali, ma in qualche modo vengono spinti in un corridoio di modo che non è che tu li tieni lontani dal tuo appezzamento e vanno in quello di fianco. Esatto. Meglio che spararli, teniamoli lontani con gli ultrasuoni. È una buona notizia, esattamente questo, meglio che spararli, li teniamo semplicemente lontani. Terzo posto, siamo sul podio, il ministro per l'agricoltura questa volta ha trovato i fondi per sostenere le mense biologiche in tutta Italia, cibi biologici per i nostri bambini nelle scuole nido e nelle elementari, costano un po' di più, però adesso il ministero le sostiene. Secondo posto. Al secondo posto sale Re Guglielmo Alessandro d'Olanda, che è un monarca eccentrico che ama lo sport, l'Italia, ma soprattutto lui ama pilotare aerei di linea in incognito. incognito, nel senso che per più di 20 anni, grazie alla compagnia di bandiera KLM, lui ha fatto finta di essere un copilota, perché il copilota non deve dire il proprio nome. In questo modo è andato in giro per tutto il mondo facendo finta di essere un copilota. Ma la notizia qual è? Che verrà in visita in Italia dal 20 al 23 giugno e ha già detto che lui intende manifestare solidarietà alla Sicilia, perché sta affrontando da sola e con grande coraggio la crisi dei migranti, un problema che invece riguarda tutti i paesi europei. Quindi arriverà il re d'Olanda a ringraziare la Sicilia. Eh sì, un po' di pubblicità bella per la nostra Sicilia, che fa tanto da questo punto di vista. Siamo al primo posto ed è una notizia che è stata pubblicata su Lancet, la prestigiosa rivista di scienze, che dice, hanno fatto uno studio sul sistema sanitario di 195 paesi nel mondo. Ebbene, noi che ci lamentiamo spesso e volentieri del nostro, bene, siamo al quinto posto su 195 paesi, insieme a Lussemburgo e al Giappone. Al primo posto ci sono l'Andorra, poi l'Islanda, la Svizzera, e noi siamo è un ottimo posto, anche perché gli altri paesi, se si può dire, sono paesi più piccolini, dove forse è più facile gestire anche la sanità. Quindi è un quinto posto che vale certamente il podio. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E dopo le 5 buone notizie della settimana è il momento di ritrovare due progetti scelti sulla piattaforma di Apple, ma tutti i particolari li trovate anche sul sito di Radio 24, la pagina che si può fare è quella di Crowd Me Up. Due progetti che chiedono il nostro aiuto, il vostro aiuto, cari ascoltatori, e quindi abbiamo anche i nostri ascoltatori giurati. Silvia da Roma, buongiorno, benvenuta. Silvia, ci sente? Buongiorno. Pronta per fare la giurata? No, forse non del tutto. Allora andiamo con Giovanni da Verona, che abbiamo già sentito perché ha fatto la proposta di matrimonio mentre era ubriaco fradicio in una birreria di Mantova. Eccolo qua. Esatto. Sì, Giovanni, sì, buongiorno signori. Preparati, buongiorno, per i nostri progetti sul crowdfunding. Silvia, ce l'abbiamo? Silvia da Roma? Eccomi. Eccola, sì, sì. Eccola qua, benissimo, buongiorno, benvenuta anche a te. Tra poco le tue parole anche su quello che vorrai dire per quanto riguarda il resto della puntata. Restate belli concentrati, perché vi andiamo a presentare i due progetti di Crowd Me Up. Il primo si chiama Jungle, è una piattaforma web dove i musicisti possono condividere le proprie performance e anche collaborare a distanza. Gli utenti possono così arricchire l'esecuzione di un altro musicista, dando vita a delle jam session virtuali. Per far crescere questo progetto di musica collaborativa servono 10.000 euro. Ce ne parla Antonio Di Francesco, che è ideatore di questo progetto. Antonio, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Benvenuto. Buongiorno, avevo letto DJ Francesco, chiedo scusa. No. Allora Antonio, spiegaci in un minuto, poco più, come e perché possiamo sostenere questo progetto. Allora, come avete già introdotto, Jungle è un sito web che permette di suonare con musicisti di tutto il mondo, quindi direttamente dal proprio computer. Ad esempio sono un batterista, mi collego su Jungle, condivido il mio video con la mia performance di, mettiamo, We Are The Champions, per dire una canzone poco usata. Gli altri utenti del sito a quel punto possono unirsi alla mia performance e creare nuove versioni della stessa. Ad esempio sono un chitarrista, mi collego su Jungle, decido di unirmi a quella canzone e registrerò appunto la mia esecuzione direttamente dal video. Poi noi forniamo con una tecnologia che si appoggia ad HTML5, tutte insomma le ultime tecnologie del web, la possibilità di applicare effetti alla Instagram, sia audio che video. E Jungle si curerà a quel punto di creare un nuovo video collaborativo con i due musicisti, video che può essere condiviso su altri social e soprattutto a cui possono unirsi altri musicisti. Quindi arriva il bassista e a quel punto siamo in tre, il tastierista e così via. Gong! Bravo Antonio. Gong. Sei okay. Stato anche nel minuto, stavi aggiungendo qualcosa? Sì, vuoi concludere? Siete musicisti, i tempi sono importanti. Esatto. Sul BPM, il tutto senza bisogno di scaricare alcun software, è un po' il nostro, anche a quello servono i soldi, diciamo, perché abbiamo spinto sulla ricerca per, sulla tecnologia, per far sì che basta collegare il proprio strumento al computer, si va su Jungle e si diverte. Avete dei testimonial d'eccezione, se, come si dice in questi casi, se ho capito bene, vero? Chi? Sì, infatti per noi è stata una grande emozione anche. Elio le Storie Tese, prima che partissero per il loro tour europeo, li abbiamo provato a far conoscere la piattaforma, gli è piaciuto un sacco. Hanno fatto un endorsement, come si dice, nei vostri confronti, in questo progetto. Molto bene, Antonio. Allora, grazie. Silvia da Roma, Giovanni da Verona e anche Antonio da Foggia che ci ha raggiunto, anche lui l'avevamo sentito anche prima. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Qua di nuovo. Restate belli concentrati perché vi andiamo a presentare il secondo progetto di oggi. Vai. Si chiama Parole e Segni di Prevenzione, è un progetto di comunicazione sociale a favore dei non udenti. Il progetto nasce proprio dalla constatazione che le persone sorde hanno spesso un accesso limitato, non completo, alla lingua italiana e ai messaggi che possono essere veicolati con la lingua italiana. È da qui che nasce l'idea di realizzare dei filmati per veicolare i principali messaggi di prevenzione sull'HIV e l'AIDS in lingua dei segni italiani. Questa campagna nasce per raccogliere i 4.000 euro necessari alla produzione dei video. Ne parliamo con Lia Mastro Pietro della Lila Piemonte. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccola qua, Lia. Allora, è un progetto davvero molto molto particolare. Anche a te un minuto di tempo, poco più, Lia, per spiegare come e perché possiamo sostenerlo. Perché questa richiesta è partita proprio dall'Istituto dei Sordi di Torino, che ci ha contattato portandoci questa problematica, cioè la difficoltà per le persone sorde di accedere alle informazioni sull'HIV e quindi sull'AIDS e sulle malattie sessualmente trasmissibili, e quindi anche la difficoltà a potersi confrontare su questi argomenti. E ci è sembrato importante quindi fare un progetto in tal senso per abbattere le barriere di comunicazione e avviare un dialogo di informazione e prevenzione a tutela della salute. Dare quindi la possibilità alle persone sorde di confrontarsi su questi argomenti, di accedere alle informazioni in modo semplice per loro e di aumentare quindi la loro consapevolezza, di imparare a tutelarsi e di abbattere quindi i pregiudizi che ci sono intorno all'AIDS e su come si contrae. Perché non esistono, come si pensava in passato, le categorie a rischio, ma esistono i comportamenti a rischio. La sessualità è una cosa bella, è una cosa gratificante, è una cosa giocosa, fa parte della vita di tutti noi, ma bisogna anche imparare a tutelarsi, quindi avere la consapevolezza che la salute è una nostra responsabilità. Giusto. E giusto. Avere quindi la possibilità di accedere alle informazioni per queste persone che hanno difficoltà è importante. È importante ed è proprio quello che vi proponete voi. Grazie Lia. Esatto. E allora, grazie. Anche a questo punto i nostri ascoltatori possono decidere. Cominciamo con Giovanni da Verona, l'uomo che ride alla prima scintilla. Giovanni, quale dei due progetti ti ha convinto di più? La comunicazione per i non udenti o la produzione musicale condivisa sul web? Allora, io gioco, cioè giocata in casa così, nel senso, io sono un batterista, cioè, poter condividere la propria immagine live, cioè trasmetterlo diciamo al mondo, è qualcosa di fichissimo, cioè è bellissimo, è una roba bellissima. Bene, abbiamo capito, ottimo, secco, il tuo voto va direttamente a Jungle. Bene, primo voto. Allora invece Silvia da Roma. Eccola qua. Salve, buongiorno. Quale dei due progetti? È difficile veramente scegliere perché poi mi sembrano molto diversi. E lo sono. Lo sono, sì. Molto, molto. Io, diciamo, il mio voto va al progetto per la comunicazione. Per i non udenti. Benissimo, il progetto Parole e Segni di Prevenzione rivolto appunto ai non udenti per veicolare il messaggio di prevenzione che fa normalmente la Lila nei confronti dell'AIDS. Silvia, grazie. Antonio da Foggia, quindi siamo momentaneamente siamo 1-1, siamo un pareggio. Antonio, tutto nelle tue mani, puoi decidere tu oggi. Sentite, mi state chiedendo se è più veloce il treno o più alto un campanile. Sono due cose che non hanno nessuna attinenza l'una con l'altra. Non si possono paragonare, è proprio questo il bello del crowdfunding. Sono politicamente scorretto. Sì, perfetto. Quindi, però le informazioni per i non udenti la vedo una cosa più utile, più pratica, gente che comunque ha bisogno e do il mio voto al progetto per i non udenti. Ottimo. Parole e segni di prevenzione, quindi sei politicamente scorretto, ma poi una brava persona, direi. Però ricordiamo comunque a tutti che è fatto apposta anche che i due progetti, anche se non c'entrano uno con l'altro, perché nessuno dei due realmente vince o perde, perché li trovate entrambi sulla piattaforma di Eppela. Anzi, fate uno sforzino, andate e scegliete uno dei due o tutti e due e date una mano. 800 24 00 24. Tra poco torniamo di nuovo con gli ascoltatori e c'è Silvia da Roma con noi, già in linea per il suo intervento. Tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Eppela. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Avevamo in sospeso una Silvia da Roma, già giurata di Crowd Me Up. Silvia. Eccomi, buongiorno. Eccoci qua. Cosa volevi dirci? No, volevo raccontare la mia bizzarra richiesta di matrimonio, cioè quella che ho ricevuto. Ah, certo. E cioè che il giorno diciamo del nostro anniversario di fidanzamento, immagino. Sì, di fidanzamento. Fin qua era un fidanzamento, sì. Ha nevicato in Sicilia. Un evento molto raro, e lui aveva promesso che se avesse nevicato il giorno del nostro anniversario in Sicilia, sul mare, cioè nel senso proprio a livello del mare, mi avrebbe chiesto di sposarlo. Cioè, un evento rarissimo. Cioè, no, scusa. Ma che, quindi siete sposati per errore, per insomma, errore, per questioni meteorologiche. Quando cade questo anniversario? Facci capire in che stagione. No, l'anniversario non è aprile, è il 7 gennaio, ovviamente. 7 gennaio. Però diciamo che comunque è una cosa molto rara che nevichi sul mare in Sicilia. Cioè, il tuo fidanzato aveva detto questo: se al prossimo un anniversario nostro, cioè solo l'anniversario, dovesse nevicare in Sicilia, dove in particolare? Dove che vi trovavate? No, sotto Catania, diciamo. Vicino, diciamo sotto l'Etna, però a livello del mare, a Santa Maria la Scala si chiama il posto. Santa Maria la Scala. In quel caso ti chiedo di sposarti, e questa cosa è accaduta. È accaduta. È stupendo, perché per lui era chiaro. Era chiaramente un modo per non sposarsi mai, no? Uno dice sì sì, se nevica in Sicilia ti sposo, se nevica il giorno del nostro anniversario ti sposo di sicuro, che è un modo per dire così non ci sposiamo. E invece mi sembra stupendo, straordinaria. Ma questa cosa che non, sicuramente non vince il premio Oscar del romanticismo, anche se è molto particolare, originale, sì. Ma è stata condivisa anche con delle altre persone, o era una cosa tra... Era una cosa tra di voi, o l'aveva detto di fronte anche ad altre persone, lo sapevano tutti, com'era questo? No, era diciamo una cosa con cui scherzavamo da un po'. Io gli ho detto, dovevi anche chiedere un unicorno, forse ti saresti salvato. E comunque ci sposiamo il 1 luglio. Evviva allora, auguri, un sacco di auguri. Grazie. Complimenti, una storia bellissima. Entro la fine della puntata premieremo l'ascoltatore la cui proposta di matrimonio, diciamo, ci ha convinto di più dal punto di vista di chi vi chiedevamo questa mattina, cioè della condivisione, della messa in piazza, mettiamola così. Massimo Temporelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccolo qua, sigla musicale, vai. Stavolta abbiamo preso Nek che parla del futuro, perché in effetti Massimo Temporelli, tu sei uno dei partecipanti, dei testimonial del Wild Next Fest, che si svolge quando? Dove? Ieri, oggi e domani a Palestro, ai Giardini di Porta Venezia, ai Dromor Fontanelli. È un evento ormai alla quarta, quinta edizione, gigantesco e bellissimo, proprio perché gli umani che si incontrano a parlare di tecnologia e di innovazione in mezzo al verde, credo sia uno degli spettacoli più belli che si possano vedere, quindi ricordando le nostre origini naturali, ma volendole infrangere con l'artificialità che c'è consona e c'è nostra, insomma, non c'è nessun animale che usa la tecnologia come noi, qualche castoro costruisce qualcosa di strano, ma noi siamo eclatanti. Ecco, sei sempre bravissimo. Partito, io adesso starei qui il nostro per esperto i 40 di futuro minuti, e noi ti seguiamo, cioè quello che tu fai noi ti veniamo dietro e vogliamo capire. Tra l'altro, allora, perché dunque, performance artistiche, laboratori di stampa 3D, vabbè, droni in volo, videogame, film, documentari, speed date sul lavoro, qua già gli speed date sono quegli incontri, no, che, mutuati dall'America, come funziona? Sì. No, allora, so che proprio per giornalisti, io in realtà sono chiuso dentro il mio laboratorio a usare robot e elettronici, certo. ma ho sentito ieri un'intervista poi da remoto da casa e ci sono dei corsi di formazione per giornalisti, sì. Credo che tu Alessio lo sia, non so se Carlo lo sia. No, perché, Carlo non lo sia, infatti no, vedi che sbaglio anche. No, però è bello perché ci sono corsi di formazione per giornalisti sull'intelligenza artificiale. Ti stai dicendo che dobbiamo aggiornarci. No, vabbè, hai ragione. No, però no, sarebbe bello vedervi magari domani, così ci beviamo un caffè anche non solo via telefono, ma anche fisicamente. E magari andiamo insieme a un corso di formazione sull'intelligenza artificiale, sì. Come i giornalisti dovrebbero usarla nel futuro. Sta dicendo che ci dobbiamo aggiornare. È molto bene, tra l'altro è molto bello da uno che si occupa di tecnologia, sì. Che invece ci sta offrendo un caffè dal vivo, per dire va bene tutto, però perché ma poi Massimo umano, Temporelli è questo, umano. Esatto, infatti maratone di coding, maratone di coding, anche questo sorvoliamo. Tu cosa vai a fare col tuo Fab Lab? No, io trovo veramente, Federico Ferrazza e Omar Schillacci, che sono il direttore e vice direttore, hanno trovato un tema che credo a voi sia chiaro, che è quello dell'identità, perché se no sembra tutto legato al mondo dell'innovazione e della tecnologia, che sinceramente a me è anche un po' rotto, ma non perché sia contrario a quello che ho detto fino adesso, ma perché si sta spostando troppo l'attenzione sullo strumento e poco sull'uomo. L'identità dell'umano è fondamentale, sta cambiando drasticamente, è sempre cambiata, è quello che stiamo dicendo anche nel nostro laboratorio, la stampa 3D, i droni, le intelligenze artificiali, accelereranno questo cambiamento, ma noi umani siamo già cambiati nel tempo, eravamo scimmie, non dobbiamo dimenticarcelo, se no parliamo di un'altra cosa. Vivevamo in mezzo alla natura, oggi viviamo in mezzo alla tecnologia, alla cultura, c'è poca natura intorno a noi, a parte noi umani in una città come Milano e qualche piantina un po' triste, diciamo che tutto il resto è artificiale. Questo però non ci disumanizza, siamo comunque umani, no? E poi anche a Milano stiamo un pochino lentamente migliorando. Io ti ringrazio perché siamo in chiusura. Massimo Temporelli, come sempre, con grande sintesi, in pochi secondi riesce a dire tutto. Wired Next Fest Milano Firenze, noi chiudiamo qua e premiamo però Giovanni da Verona per la sua dichiarazione di proposta di matrimonio, ubriaco fradicio, l'abbiamo già raccontata questa storia, vince il premio il libro a tema di oggi, grazie ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Andrea Roccabella. Noi ci risentiamo domani 8:30 10 con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini.